Capitolo 45. Quindi Holford, che te ne pare? Mentre leggevi il suo diario, sei riuscito a immaginare come potevo sentirmi io leggendo la mia volta? Ah, non credo, né voglio parlartene adesso. Mi limito a confidarti una cosa sola, che forse non mette in buona luce la natura umana, di sicuro non la mia, e cioè che la prima parte del diario è stata per me più dolorosa rispetto alla seconda. Non perché restassi indifferente agli errori della signora Huntington né alle sue pene, ma ho provato una certa soddisfazione nel leggere come andava lentamente guastandosi la sua stima per lui, nel vedere in che modo quell'uomo era riuscito alla fine a estinguere l'affetto di sua moglie. Quindi, malgrado la mia solidarietà con lei e la mia rabbia nei confronti di lui, mi sono sentito nell'insieme liberato da un peso, con il cuore finalmente colmo di gioia, come se un amico mi avesse destato da un brutto sogno. Erano le 8 del mattino, la candela era finita durante la notte. E a quel punto potevo andare a prenderne un'altra, mettendo tutta la casa in allarme, o interrompere la lettura e riprenderla con la luce del giorno. Per rispetto nei confronti di mia madre, optai per la seconda soluzione, ma ti lascio immaginare con quanto poco sonno poggiai la testa sul cuscino. Mi alzai con le prime luci dell'alba, avvicinandomi alla finestra con il diario, ma leggere era ancora impossibile. Persi una mezz'ora a vestirmi e ci riprovai. Finalmente, pur con qualche difficoltà, ci riuscivo, così divorai il resto con vivo interesse. Una volta finito e superata l'amarezza per il modo brusco in cui si concludeva il manoscritto, aprii la finestra per godere della brezza del mattino e respirare quell'aria pulita a pieni polmoni. La giornata era bellissima, i campi erano coperti di brina, le rondini garrivano attorno a me, i corvi gracchiavano e le mucche muggivano lontane. L'aria gelida della notte e quella tiepida del mattino si mescolavano dolcemente. Ma pur contemplando quella natura meravigliosa, i miei pensieri erano affollati da una moltitudine di emozioni che presto si ridussero a due: la felicità, perché la mia amata Helen era esattamente come avevo sperato, e malgrado le fetide esalazioni delle maldicenze che circolavano su di lei e delle mie peggiori conclusioni, la sua purezza era lampante e immacolata, come quel sole su cui non potevo fissare lo sguardo. E poi l'imbarazzo e il rimorso per il modo in cui mi ero comportato. Finita la colazione andai di corsa a Wildfell Hall. Rispetto al giorno prima, Rachel aveva guadagnato molti punti nella mia stima e quasi l'avrei voluta salutare come un'amica. Ma persi ogni slancio di fronte allo sguardo gelido con cui mi accolse aprendomi la porta. La vecchia vergine aveva deciso di proteggere l'onore della sua padrona, evidentemente, e senz'altro mi considerava come un signor Hargrave qualsiasi, ma più pericoloso, perché la sua padrona nutriva ammirazione e fiducia nei miei confronti. La signora non si sente bene e oggi non può ricevere visite, mi rispose quando le chiesi di poterla vedere. Ma io devo assolutamente vederla, Rachel, le dissi fermando la porta con la mano perché non me la chiudesse in faccia. Vi ho appena detto che non è possibile, signore, ripeté guardandomi con più freddezza. Se solo voi poteste dirle che sono qui. Non servirebbe, signor Markham. Come vi ho detto, la signora non sta bene. Giusto in tempo per evitare che mi lanciassi inopportunamente all'assalto della cittadella, entrando senza essere annunciato, ecco aprirsi una porta laterale e venirmi incontro il piccolo Arthur con il suo fedele amico il cane. Mamma dice che voi dovete entrare, signor Markham, e che io devo uscire a giocare con Rover. Rachel mi lasciò passare con un sospiro. E io raggiunsi il salotto chiudendomi la porta alle spalle. La trovai davanti al camino nella sua figura alta e aggraziata, consumata da così tante pene. Lasciai il suo diario sul tavolo e la guardai. Era pallida e mi guardava a sua volta con ansia. Mi fissava con i suoi occhi scuri tanto intensamente da farmi sentire improvvisamente come sotto un incantesimo. «Avete trovato il modo di guardarlo?» mi chiese. L'incantesimo era rotto. L'ho letto tutto quanto e ora voglio chiedervi di perdonarmi se potete, le risposi avvicinandomi. Non disse nulla, ma notai che aveva gli occhi lucidi e arrossì sulle guance e sulle labbra. Improvvisamente si voltò verso la finestra, non tanto per rabbia, credo, ma per poter meglio controllare l'emozione. Mi azzardai a seguirla, quindi, e mi misi in silenzio al suo fianco. Lei mi porse la mano senza girarsi e cercando di controllare il tono della voce mi disse: "E tu puoi perdonarmi?" Avrei osato troppo, mi dissi, se avessi portato la sua mano alle labbra, quindi mi limitai a stringerla delicatamente nella mia e le risposi, sorridendo, con qualche difficoltà, perché avresti dovuto parlarmene prima, ma evidentemente non ti fidavi abbastanza di... "No, no!" mi fermò con decisione. "Non è stata mancanza di fiducia nei tuoi confronti, ma se ti avessi rivelato qualcosa della mia storia, avrei dovuto dirti anche il resto, cosa che avrei preferito evitare se non costretta dalle circostanze. Puoi perdonarmi? Ti ho fatto un torto grande, lo so, e come sempre non ho fatto che raccogliere i frutti dei miei sbagli, e così sarà, da ora in poi." Pronunciò quest'ultima frase con solennità, determinazione e angoscia. A quel punto mi portai la sua mano alle labbra e la baciai con passione, poiché le lacrime non mi consentivano un'altra risposta. Accettò le mie appassionate carezze senza resistermi né offendersi, poi si allontanò e si mise a camminare su e giù per la stanza. Io capii dal modo in cui aveva stretto le labbra e corrugato la fronte e dal modo in cui continuava a torcersi le mani che doveva essere in preda a un profondo conflitto tra ragione e sentimento. Alla fine, di spalle al caminetto, mi guardò e mi disse con tranquillità quel che le era sicuramente costato un grande sforzo elaborare. "Gilbert, tu dovrai lasciarmi. Non subito, ma presto, e non tornare mai più." "Come, Helen? Nel momento in cui ti amo di più. Ed è proprio questa la ragione per cui non dobbiamo incontrarci più. Ho desiderato questo incontro sperando che potessimo entrambi perdonarci per quanto accaduto in passato, e ora non abbiamo ragione di vederci ancora. Io me ne andrò non appena avrò la possibilità di farlo, e la nostra amicizia deve finire qui." "Finire qui!" esclamai a mia volta. Poi mi accostai al camino intarsiato e misi una mano su uno dei fregi, posandovi sopra la fronte chiuso in un silenzioso tormento. "Non dovrai tornare più qui," continuò lei. Le tremava la voce, ma nel complesso mi sembrava salda e composta, un atteggiamento provocatorio considerando la gravità di quanto stava dicendo. "Non serve che ti dica per quale motivo è necessario separarci, e subito. È difficile dirsi addio e tu dovrai aiutarmi." Poi tacque. Io rimasi in silenzio. "Promettimi che non tornerai. Se non lo farai e ti rivedrò di nuovo qui, mi costringerai a partire anzitempo, prima ancora di sapere dove poter trovare un nuovo rifugio." "Helen," le dissi guardandola, "io non riesco a conversare di una nostra definitiva separazione con la stessa serenità con cui riesci a farlo tu. Nel mio caso non si tratta di una soluzione più o meno opportuna, ma è una questione di vita o di morte." Tacque, le labbra livide e le dita tremanti per l'emozione che stringevano la catenina del piccolo orologio d'oro, unico prezioso che si era concessa di portare con sé. Mi ero espresso in modo ingiusto e crudele e proseguii dicendo qualcosa di ancora più forte. "Helen," le dissi in tono quieto, a bassa voce, senza guardarla negli occhi, "quell'uomo non è tuo marito. Il cielo stesso non gli concederebbe più alcun diritto su..." A quel punto mi prese il braccio con incredibile forza. "No, Gilbert," gridò così forte che avrebbe potuto forare un diamante. "Per l'amore del cielo, non parlare così. Neppure il mio peggior nemico potrebbe torturarmi in questo modo." "D'accordo, va bene," le risposi mettendo la mia mano sopra le sue, turbato dalla violenza con cui mi aveva parlato, quanto ero imbarazzato dalla mia stessa insolenza. "Invece di starmi accanto come un amico," disse andando a gettarsi sulla poltrona, "e fare del tuo meglio per aiutarmi a dominare la passione in favore della giustizia, lasci a me tutto il peso, e come se non bastasse ti impegni a contrastarmi, ben sapendo che..." Poi si interruppe e nascose il viso nel fazzoletto. "Scusami, Helen, non mi sentirai mai più dire nulla su questo argomento, ma non potremmo continuare a vederci in amicizia." "Impossibile," mi rispose scuotendo mestamente il capo. Poi mi guardò con occhi severi, come a dire: "Lo sai anche tu." "Cosa dobbiamo fare allora?" le chiesi con fervore, salvo affrettarmi ad aggiungere in tono più pacato: "Farò qualunque cosa desideri, ma non dirmi che questo è il nostro ultimo incontro." "Perché non dovrei? Lo sai che ogni nuovo incontro non fa che rendere il pensiero della separazione sempre più insopportabile. Non senti anche tu che vedersi ci rende ogni volta più cari l'uno all'altra?" Pronunciò quest'ultima frase velocemente e a bassa voce, guardando a terra, e il modo in cui arrossiva dimostrava che di sicuro lei lo sentiva e come. Fu imprudente da parte sua ammetterlo, così come dire quel che disse subito dopo. Oggi ho ancora la forza di separarmi da te, domani potrebbe non essere così. Tuttavia, non avrei approfittato della sua sincerità. Potremmo scriverci, proposi timidamente. Non puoi negarmi questo conforto. Potremmo avere notizie l'uno dell'altra tramite mio fratello. Tuo fratello? Fui colpito da un'angoscia improvvisa. Della mia aggressione non sapeva nulla, né io avrei avuto il coraggio di confessargliela. No, non ci aiuterà sicuramente, anzi, interromperebbe qualsiasi comunicazione tra noi, dissi. E farebbe bene, immagino. È amico di entrambi e si adopererebbe per fare l'interesse di tutti e due. E come qualsiasi altra persona amica, ci direbbe anche lui che faremmo meglio a dimenticarci, per quanto non sia per noi facile accettarlo. Tuttavia, non devi temere, Gilbert, aggiunse, notando il mio improvviso sgomento. Non ti dimenticherò facilmente. Ad ogni modo, non volevo intendere che Frederick dovrebbe farci da intermediario per le nostre comunicazioni, ma solo che potremmo, tramite lui, sapere l'uno della buona salute dell'altra, giacché non è opportuno andare oltre questo, credo. Tu sei giovane, devi sposarti, e anche se oggi ti sembra impossibile, lo farai. Non sarei onesta se ti dicessi che spero che mi dimenticherai, ma so che sarebbe la cosa più giusta per la tua felicità e quella della tua futura moglie. Quindi è qualcosa che devo e voglio sperare, concluse decisa. Anche tu sei giovane, Helen, le risposi con audacia, e quando quella canaglia arriverà in fondo alla sua triste carriera, mi concederai la tua mano. Aspetterò che arrivi quel momento. Eppure non mi lasciò nemmeno questa speranza. Innanzitutto non era moralmente accettabile fondare questa illusione di felicità sulla morte di qualcuno, inadatto alla vita eterna tanto quanto a quella terrena, i cui progressi avrebbero rappresentato per noi la peggiore delle disgrazie e la cui debolezza a un passo verso la realizzazione. In secondo luogo, aveva visto uomini con le stesse inclinazioni e gli stessi vizi di Huntington arrivare alla vecchiaia, per quanto infelicemente. Posso essere giovane di età, aggiunse, ma sono vecchia nel dolore. E ammesso che le mie pene non mi uccidano prima che il vizio uccida lui e che lui arrivi a 50 anni, aspetteresti ancora 15 o 20 anni nell'incertezza, sprecando la parte migliore della tua gioventù, per sposare alla fine una donna consumata, sfiorita come io sarò nel frattempo diventata, senza avermi mai più vista fino a quando non arrivi quel giorno? No, che non lo faresti, disse contrastando le mie appassionate proteste di assoluta fedeltà. O seppure lo facessi, non dovresti farlo. Dammi ascolto, Gilbert, ne ho esperienza. Forse penserai che io sia fredda, che abbia un cuore di pietra, ma no, Helen, non ti biasimerei se così fosse. Ma credimi, non parlo mossa da un istinto improvviso come te. Io ho avuto molto tempo per riflettere su queste cose dentro di me. Ponderando sul nostro passato, presente e futuro, e ti prego di credermi, ne ho tratto le giuste conclusioni. Fidati di quel che ti dico ora, più di quanto ti fidi del tuo cuore. Tra qualche anno capirai che avevo ragione, sebbene ora anche io faccia fatica a vederlo con chiarezza, concluse con un sospiro, poggiando il mento sulla mano. Non contraddirmi, non c'è nulla che possiamo dire che non sia già stato detto dal mio cuore e respinto dalla mia ragione. È già stato tanto difficile contrastare quelle parole quando nascevano dentro di me, ma pronunciate da te sarebbero 10 volte peggiori. Se sapessi come mi feriscono, non le diresti, ne sono sicura. Se conoscessi i miei sentimenti, anzi, ti sforzeresti di sollevarli anche a scapito dei tuoi. Tra un minuto me ne andrò. E spero che questo ti sia di sollievo, dissi con un amaro slancio, ma se davvero non ci incontreremo mai più, né potremo sperare che accada, è forse un crimine scambiarci delle lettere. Le anime gemelle non dovrebbero potersi incontrare e mescolare, qualsiasi sia il futuro, a loro destinate. Ma sì, esclamò lei, improvvisamente rianimata. Ho pensato anche a questo, Gilbert, ma non ho voluto parlartene per timore che non avresti capito qual è il mio punto di vista su questo argomento, e ancora lo temo. Qualsiasi buon amico ci direbbe che è una follia intrattenere una relazione spirituale pensando di non sovrapporvi mai la speranza di una realizzazione, o il rimpianto doloroso, o altri sentimenti che in realtà bisognerebbe lasciar spegnere. Ah, lascia stare i buoni amici, che si accontentino di tenerci separati nel corpo, ma per l'amor del cielo non lasciamo che dividano anche le nostre anime. Gridai, temendo che volesse rifiutare anche quest'unica consolazione. Non possiamo scambiarci lettere finché sono qui senza causare uno scandalo. E quando sarò partita, vorrei che il mio indirizzo restasse sconosciuto per te come per chiunque altro. No, non perché dubiti che tu venga meno alla tua parola se giuri di non venirmi a cercare, ma solo perché tu possa vivere più serenamente sapendo di non poterlo fare e senza potermi immaginare in un luogo preciso. Però, disse sorridendomi con un dito alzato a interrompere la mia protesta, fra 6 mesi Frederick ti dirà dove sono, e se ancora vorrai scrivermi, ritieni di poter intrattenere con me una corrispondenza platonica, come fossimo anime incorporee o amici senza passione, allora scrivimi e io ti risponderò. 6 mesi? Sì, affinché la tua passione si raffreddi e tu sia libero di dimostrare la sincerità e la costanza dell'amore della tua anima per la mia. Adesso basta, separiamoci. Disse con forza, alzandosi in piedi di scatto con le mani giunte. Ritenni di dovermene andare senza indugiare oltre, così le allungai una mano che lei afferrò senza dire una parola. Eppure il pensiero di questo addio mi era talmente insopportabile che sentii il sangue ribollirmi nelle vene e i piedi restare incollati al pavimento. Per non incontrarci più, mormorai colmo di angoscia. Ci incontreremo in cielo. È questo che dobbiamo pensare, mi rispose lei con una calma disperata, ma pallida e con occhi lucidi e selvaggi. Ma non come siamo adesso, le dissi senza sapermi trattenere. Non mi è di grande conforto il pensiero di rivederti come spirito, pur perfetta nella tua gloria futura, ma non come appari adesso e magari con un cuore che io non conosco più. No, Gilbert, l'amore del cielo è perfetto. Così perfetto da levarsi al di sopra di ogni distinzione, così che il tuo affetto per me non sarà diverso da quel che provi per le migliaia di altri angeli e l'infinita moltitudine di spiriti che avrai attorno? In qualsiasi modo io sarò, sarai anche tu, quindi non mi rattrista. Inoltre, se un cambiamento ci sarà, sarà per il meglio. Eppure, se sarò cambiato al punto di non amarti più al di sopra di ogni altra creatura, allora non sarò più me stesso. Certo, sarò infinitamente migliore di adesso e più felice in paradiso, ma la mia natura terrena non può ora gioire di questa prospettata beatitudine, dalla quale è esclusa la sua più grande gioia. Dunque, il tuo amore è così terreno? No, ma credo che non vi sarà tra noi una comunione privilegiata rispetto a quella che avremo con gli altri esseri attorno a noi. Solo perché ameremo loro di più, non perché ameremo noi di meno. L'aumentare dell'amore aumenta la felicità, e quando è reciproco, è puro, più che mai. Riesci davvero a immaginare con piacere il pensiero di perdermi in quell'oceano di gloria, Helen? Riconosco di non esserne capace, ma non possiamo sapere che sarà davvero così, e inoltre so che non ci si può lamentare di dover scambiare i propri piaceri terreni per le gioie eterne, perché sarebbe come se un bruco si lagnasse di dover un giorno smettere di mangiare le foglie per volare alto, vagando di fiore in fiore, bevendo il dolce nettare dalle loro corolle o riposando sui loro petali bagnati dal sole. Ti offro un altro esempio. Se non dovessi trovare quest'ultimo già abbastanza calzante, pensa se fossimo dei bambini. Ecco, se avessimo la sensibilità e la capacità di comprensione dei bambini e ci dicessero che gli uomini e le donne non giocano con i giocattoli, che un giorno i nostri amici si stuferanno di fare quel che ora li diverte e li interessa tanto, di sicuro non potremmo evitare di sentirci tristi, perché non siamo in grado di capire che crescendo la nostra mente si espanderà al punto che saremo noi i primi a considerare quegli oggetti privi di qualunque significato. Né potremmo credere che i nostri compagni, pur non giocando più con noi, potranno condividere con noi altri piaceri che uniranno le loro anime alle nostre per qualcosa di più nobile, che ora non siamo in grado di comprendere, che non saranno meno amate dei balocchi, nemmeno intrinsecamente buone, tuttavia rimanendo, sia noi che loro, le stesse persone di sempre. Dimmi, Gilbert, Non ti conforta l'idea di rincontrarci dove non c'è pena, dove non c'è sofferenza né lotta contro il peccato, opposizione dello spirito contro la carne, dove guardare insieme le stesse verità, dove bere la stessa felicità che proviene da quella fonte di luce e di bontà, l'essere supremo che noi adoreremo con la medesima intensità e divino fervore? Oh, se così non è, allora non scrivermi mai. Ma certo, Helen, che mi conforta, sempre che la fede non mi abbandoni. Coraggio dunque, facciamoci forti di questa speranza, esclamò. Separiamoci, gridai io, non voglio importi la fatica di dovermi cacciare, me ne andrò tra un istante, da solo, ma. Non fu necessario esprimere la mia richiesta a parole, poiché lei capì subito e cedette, sebbene non ci fu in realtà nessuna richiesta e nessuna concessione, ma un impulso improvviso al quale nessuno dei due riuscì a opporre resistenza. La stavo guardando negli occhi e un istante dopo la stringevo sul cuore. Mi sembrava che crescessimo insieme in quell'abbraccio che nessuna forza avrebbe potuto sciogliere, né fisica né mentale. Mi sussurrò: "Che Dio ti benedica." E ora va. Ma continuava a tenermi così stretto che se anche avessi voluto non avrei potuto obbedirle. Infine, con uno sforzo eroico, ci separammo ed io mi allontanai di corsa dalla casa. Ricordo il piccolo Arthur che mi correva incontro lungo il vialetto in giardino e io che scavalcavo il muretto per non doverlo incontrare e poi giù di corsa per i campi ripidi, oltrepassando i recinti e gli steccati che trovavo sulla mia strada, fino ad allontanarmi abbastanza in fondo alla valle da non vedere più la vecchia villa. Ricordo poi che piansi a lungo, lamentandomi e abbandonandomi ad amare riflessioni con il suono del vento tra gli alberi ombrosi nelle orecchie, insieme con il mormorio del ruscello che scorreva nel suo letto sassoso. Ero più che altro attonito a fissare le ombre a scacchiera che danzavano morbide sul prato dove ogni tanto cadeva qualche foglia morta per unirsi al ballo. Ma il mio cuore era lontano da lì. Era rimasto in cima alla collina, dentro quella stanza buia dove lei piangeva disperata e in solitudine. Non avrei potuto consolarla né rivederla, probabilmente fino a che la fatica di anni non ci avesse consumati entrambi, strappando la nostra anima al suo perituro corpo d'argilla. Quel giorno combinai ben poco, come potrai bene immaginare. La fattoria restò in mano ai braccianti e i braccianti abbandonati a se stessi. C'era però qualcosa che non si poteva rimandare. Non avevo certo dimenticato la mia aggressione a Frederick Lawrence e dovevo andare a trovarlo per scusarmi dell'accaduto. Avrei preferito rimandare il tutto all'indomani, ma temevo che nel frattempo potesse rivelare qualcosa a sua sorella. Meglio andargli a chiedere perdono subito, supplicandolo di non appesantire troppo le sue accuse, se proprio sentiva di doverle fare. Rimandai la cosa alla sera, quando mi sentivo finalmente più in me. E quando, oh, come meravigliosamente perversa l'umana natura, già si annidava in me il germe di una nuova speranza. Non volevo certo incoraggiarlo dopo quanto era stato detto a tale proposito, ma decisi di tenerlo lì, senza cacciarlo, almeno fino a quando fosse giunto il momento in cui sentivo di poter vivere, senza. Una volta giunto a Woodford, la residenza di quel gentiluomo, non mi riuscì facile essere ammesso alla sua presenza, eh? Chi mi venne ad aprire mi disse che il signore era molto malato e che sicuramente non avrebbe potuto ricevermi. Io, però, non avevo alcuna intenzione di essere respinto. Rimasi all'ingresso in attesa che mi annunciassero, deciso a non accettare alcun rifiuto se fosse venuto. Il messaggio fu infine quello che mi ero immaginato, e cioè che il signor Lawrence non poteva ricevere nessuno poiché aveva la febbre e non doveva essere disturbato. Non mi tratterrò a lungo, dissi allora, ma devo vederlo almeno per un momento poiché ho bisogno di parlargli di una questione molto urgente. Riferisco, signore, mi rispose quell'uomo. Io, nel frattempo, avanzai ancora un po' nell'ingresso, spingendomi quasi fin sulla porta della camera in cui si trovava il padrone di casa, il quale evidentemente non era a letto. Il cameriere tornò a dirmi che il signor Lawrence sperava che potessi lasciare detto a lui, dato che al momento non era in grado di occuparsi di questioni importanti. Se può vedere voi, vedrà anche me, e così dicendo mi feci strada verso quella porta, superando il cameriere sbigottito. Bussai con forza, entrai e me la chiusi alle spalle. Era una stanza piuttosto grande, ben arredata per essere di un celibe. C'era un bel fuoco rosso acceso nel camino che luccicava attraverso la grata, con un levriero anziano ormai dedito solo all'ozio che dormiva lì davanti accucciato sul tappeto soffice. Lì accanto, in un angolo vicino al divano, uno spaniel sedeva composto, fissando con una certa malinconia il suo padrone, forse per chiedergli il permesso di salire anche lui sul divano. O magari stava solo elemosinando una carezza, una parola gentile. Anche il malato appariva interessante, sdraiato lì, nella sua elegante vestaglia con un fazzoletto di seta sulla fronte. Il viso, solitamente molto pallido, era invece arrossato e febbricitante. Prima che si accorgesse di me, notai che teneva gli occhi semichiusi, mentre poi si aprirono subito. Teneva in mano un libro che ora ciondolava oltre lo schienale del divano stancamente, come se avesse cercato di leggerlo per far passare il tempo. Appena mi vide avanzare nella stanza, ebbe un tale moto di indignazione che il libro gli cadde di mano. Mi fermai davanti a lui. Si tirò su a sedere tra i cuscini, fissandomi con stupore, paura e indignazione. «Signor Markham, questa non me l'aspettavo», disse sempre più pallido. «Lo so», gli risposi, «ma datemi un minuto di tempo e vi spiegherò perché sono venuto». Senza pensarci, mi avvicinai di qualche passo ancora e lo vidi sussultare con un'espressione di sdegno e di paura negli occhi che non mi lasciarono ben sperare. A quel punto feci qualche passo indietro. «Fate in fretta», disse accostando la mano alla campanella d'argento che teneva lì vicino. «Se non volete che chiami qualcuno, non sono in condizioni di sopportare la vostra violenza e neppure la vostra compagnia». A conferma di ciò vidi che la fronte iniziava a imperlarsi di sudore. Quell'accoglienza non mi facilitava il già arduo compito, in effetti, eppure non potevo rinunciare e mi lanciai senza starci troppo a pensare. Ecco, il punto è che, cominciai, non mi sono comportato molto bene con voi negli ultimi tempi, Lawrence, e sono qui per esprimervi il mio dispiacere per quanto è successo e a chiedervi di perdonarmi. Se deciderete di non concedermelo, aggiunsi notando l'aspetto che aveva, saprò di aver fatto comunque il mio dovere, ecco tutto. Che modi! Commentò con un sorriso sarcastico. Aggredire il vostro amico, colpirlo in testa senza motivo e poi venire a dirgli che in fondo non vi siete comportato tanto bene, ma non vi importa se vi si perdona oppure no. Non vi ho detto che ho agito senza motivo, aggiunsi. Sarei stato più oculato a scegliere le parole giuste per scusarmi se non mi aveste provocato subito così. E va bene, immagino sia comunque colpa mia. Io però non potevo sapere che foste il fratello della signora Graham e ne avevo sentite talmente tante su di voi da essere sospettoso, cosa che, lasciatemelo dire, mi sarei risparmiato se foste stato più franco anche voi. Infine mi è successo di udire per caso una conversazione tra di voi, in seguito alla quale ho pensato che i miei sospetti fossero fondati. E come sapete che sono suo fratello? Mi domandò con ansia crescente. Ah, è stata lei stessa a dirmelo. Mi ha raccontato tutto. Sapeva di potersi fidare di me. Non agitatevi ora, Lawrence. Ci siamo detti addio per sempre. Per sempre? È partita? No, ma ha detto addio a me. E io le ho promesso di non tornare più in quella casa finché ci resterà. A quel punto avrei potuto accompagnare le mie parole con un grido o un lamento, ma mi limitai a battere il piede sul tappeto e intrecciare le mani. Il mio amico sembrava molto sollevato. Avete fatto bene, mi disse, approvando quanto gli avevo detto e illuminandosi. Quanto all'errore, anche a me dispiace per entrambi. Spero perdonerete la mia mancanza di fiducia, ma vorrei farvi presente a mia discolpa che ultimamente non incoraggiavate di certo grandi confidenze. Come no, me ne ricordo bene e nessuno può giudicarmi più duramente di quanto faccia io stesso, né soffrire di più per il risultato della mia violenza, come giustamente l'avete definita. Ah, state tranquillo, mi disse con un lieve sorriso. Dimentichiamo davvero ogni brutta parola che sia stata pronunciata dall'uno o dall'altro e ogni gesto, e consegniamo all'oblio tutto quel che rappresenta per noi un motivo di rimorso. Ve la sentite di stringermi la mano? Me la tese, tremando per la debolezza, lasciandola ricadere prima che avessi il tempo di stringerla a dovere. Lawrence, la vostra mano è bollente, voi siete davvero malato e ho peggiorato la vostra situazione con le mie chiacchiere, gli dissi. Non è nulla di grave, ho preso freddo sotto quella pioggia. E anche questo è colpa mia. Non prendetevela e ditemi piuttosto, l'avete per caso raccontato a mia sorella? Devo ammettere che non ne ho avuto il coraggio. Quando glielo direte, ve ne prego, fatele presente quanto sono mortificato. Non abbiate paura. Se manterrete la vostra promessa di starle lontano, io non le dirò nulla. Quindi non sa niente della mia malattia. Non credo. Ah, grazie al cielo. Ero in ansia che qualcuno le riferisse che stavo morendo o che mi ero gravemente ammalato. Temevo che si preoccupasse all'idea di non poter avere mie notizie né prendersi cura di me e che facesse qualche sciocchezza, come venire a trovarmi di persona. Devo fare in modo che sappia qualcosa da me prima che da qualcun altro, disse pensieroso. Molte persone sarebbero più che contente di raccontarle questa storia, per il gusto di vedere la sua reazione. Potrebbe prestare il fianco a nuove maldicenze. Mi pento di avergliene parlato, dissi. Se non fosse per la mia promessa, andrei a dirglielo subito. No, no, non pensavo certo a una simile soluzione, però potrei scriverle un breve messaggio, senza dir nulla di voi, Markham, ma raccontandole per sommi capi che non mi sento bene e non potrò andare a trovarla, e soprattutto mettendola sull'avviso che qualcuno potrebbe raccontarle versioni esagerate di quanto accaduto. Potrei camuffare la grafia sul retro della busta e voi potreste passare a lasciarla all'ufficio postale. Che ne dite? Preferirei non chiederlo alla servitù. Mi resi subito disponibile e gli avvicinai lo scrittoio. Non fu necessario che si impegnasse troppo a camuffare la sua grafia, dato che, poverino, sembrava avere serie difficoltà a scrivere anche solo in modo chiaro. Quando ebbe finito, pensai che fosse il caso di andarmene e gli domandai se ci fosse qualcosa, qualsiasi cosa che potessi fare per sollevarlo e farmi perdonare la mia condotta. No, mi disse. Avete già fatto molto, di certo più di quanto potrebbe fare il migliore dei dottori, perché mi avete tolto dalla testa due grandi pesi, l'ansia per mia sorella e il dispiacere che provavo vedendo il modo in cui vi comportavate con me recentemente. Sono convinto che questi due motivi di angoscia abbiano contribuito alla mia febbre più di qualsiasi altra cosa, e credo che a questo punto guarirò al più presto. Ma c'è qualcosa che potete fare. Venite a trovarmi, dato che, come potete vedere, sono molto solo qui. Vi assicuro che le vostre visite non saranno più contrastate come oggi. Glielo promisi e lo salutai con una stretta di mano. Mentre tornavo a casa, mi fermai a spedire la lettera, lottando contro me stesso per non infilare nella busta qualche riga, anche da parte mia. Capitolo 46. Ebbi spesso la tentazione di rivelare a mia madre e a mia sorella la verità sulla storia della vessata inquilina di Wildfell Hall, e mi pentii di non aver chiesto a lei l'autorizzazione di farlo. Ma a ripensarci, in effetti, dicendolo a loro non sarebbe rimasto a lungo un segreto neppure per i Millward e i Wilson, e stando all'opinione che mi ero fatto di Eliza Millward, non dubitavo che una volta saputa la verità avrebbe trovato il modo di far sapere al signor Huntington dove si trovasse la moglie. Mi ripromisi dunque di lasciar passare con pazienza i 6 mesi e poi, quando la fuggitiva avesse trovato una nuova sistemazione e io avessi avuto il permesso di scriverle, le avrei chiesto di poter mettere fine alle calunnie raccontando a tutti come stavano le cose. Per il momento mi dovevo accontentare di dire che erano tutte falsità e che un giorno avrei potuto provarlo e svergognare chi parlava tanto male di lei. Nessuno mi prendeva sul serio, credo, ma impararono a evitare di fare certe allusioni in mia presenza, o addirittura di nominarla. Mi credevano talmente innamorato di quella disgraziata signora da arrivare a perdonarle qualsiasi cosa, anche negando la realtà. Dal canto mio, ero diventato chiuso e insofferente al pensiero che tutte quelle persone avessero una simile indegna considerazione della cosiddetta signora Graham. Che di certo avrebbero liberamente espresso se ne avessero avuto il coraggio. Mia madre, poverina, era molto in ansia per me, ma non potevo farci nulla. Sebbene ogni tanto mi prendesse il rimorso al pensiero di come mi stavo comportando con lei, e allora cercavo di correggermi. In parte ci riuscivo. Con lei mi comportavo meglio che con chiunque altro, eccetto Lawrence. Rose e Fergus tendevano a evitarmi, e giustamente, dato che non eravamo adatti a tenerci compagnia in quella situazione. La signora Huntington lasciò Wildfell Hall dopo 2 mesi dal nostro ultimo incontro. Per tutto quel periodo non venne mai in chiesa, né io mi avvicinai alla sua casa. Sapevo che c'era solo per le poche risposte che dava Lawrence alle mie molte domande a riguardo. Andai spesso a trovarlo durante la malattia e la convalescenza e non solo per il desiderio di vederlo guarire in fretta e di potermi far perdonare la mia passata violenza, ma anche perché avevo iniziato a sentirmi sinceramente affezionato a lui e a trovare la sua compagnia sempre più piacevole. In parte per la cordialità che mi dimostrava e in parte per la sua connessione di sangue e di sentimenti con la mia amata Helen. Gli volevo bene anche per questo, e più di quanto fossi disposto a riconoscere. Mi piaceva stringere quelle dita bianche e sottili, così simili alle sue, pur considerando che non era una donna, e osservare i lineamenti del suo viso cambiare espressione o la sua voce cambiare intonazione, annotando di volta in volta nuove somiglianze che mi stupivo di non aver mai colto prima. Mi irritava a volte, mostrandosi riluttante a parlarmi di sua sorella, ma capivo che lo faceva a fin di bene, per non incoraggiarmi a indugiare sul ricordo di lei. Non guarì tanto rapidamente come aveva sperato, e riuscì a salire a cavallo non prima che fossero trascorse 2 settimane dalla nostra riconciliazione. Appena recuperate le forze, andò di notte a Whitefell Hall a trovare la sorella. Certo era un rischio per entrambi, ma riteneva necessario confrontarsi con lei circa la partenza e rassicurarla sulla propria salute. L'unica conseguenza fu una lieve ricaduta e nessuno seppe di quella visita, eccetto gli abitanti della vecchia villa e me. Non voleva parlarmene inizialmente, credo, perché quando andai a trovarlo il giorno dopo e lo trovai meno in salute di quanto mi aspettassi, si giustificò dicendomi solo che aveva preso un po' troppo freddo la sera prima. Dovete riguardarvi, altrimenti non riuscirete a incontrare vostra sorella, gli dissi, invece di compatirlo, dato che mi venne spontaneo prendere le difese di lei. Ah, l'ho già incontrata, mi rispose. Ah sì? Dissi io sorpreso. Sì, e a quel punto mi raccontò i dettagli della spedizione e le precauzioni che aveva preso. E come l'avete trovata? Domandai impaziente. Al solito, rispose con una certa malinconia. Sarebbe a dire non felice, non in forze? No, non voglio dire che stia male, rispose, e anzi sono sicuro che si rimetterà presto, ma certo tutte queste prove sono state un duro colpo per lei. Che brutte nuvole, aggiunse guardando fuori dalla finestra. Di sicuro verrà un temporale prima che faccia sera, proprio mentre sono nel mezzo della raccolta del Gran Turco. Avete già messo via il vostro? No, ma ditemi, Lawrence, vostra sorella vi ha parlato di me? Mi ha domandato se vi avessi visto negli ultimi tempi. E cos'altro? Non posso riferirvi tutto quello che ci siamo detti, mi rispose accennando un sorriso, anche perché abbiamo parlato a lungo, malgrado la mia visita sia stata breve. Abbiamo discusso in particolare della sua intenzione di partire e le ho chiesto di rimandare il tutto a quando sarò in condizioni di poterla aiutare meglio a trovare una nuova sistemazione. E di me non ha detto altro. Non mi ha parlato molto di voi, Markham, né io l'avrei incoraggiata a farlo se avesse voluto, ma per fortuna non è successo. Mi ha fatto solo poche domande su di voi e mi è parsa soddisfatta delle risposte che le ho dato. Direi che in questo si è dimostrata più saggia di voi e mi è parso che si preoccupasse di più all'idea che pensaste troppo a lei che non il contrario. E ha ragione. Invece mi pare che la vostra preoccupazione sia l'opposto. No, no, questo no. Io desidero che lei sia felice, solo non vorrei che mi dimenticasse completamente. È conscia che io non potrei mai dimenticarla e teme che possa ricordarla troppo spesso, mentre io non vorrei certamente che lei mi rimpiangesse al punto d'esserne triste, anche perché non ne sarei degno, se non per la stima che nutro nei suoi confronti. Nessuno di voi due merita di avere il cuore spezzato, naturalmente, né tutti i sospiri e i patimenti che ci sono stati e che ci saranno ancora, temo, per entrambi. I sentimenti di mia sorella sono altrettanto intensi dei vostri, forse più saldi ancora. Lei però ha la forza e il senno di contrastarli in questo momento, e non avrà pace fino a che non smetterà di pensare a... si interruppe esitando. A me. Ecco, e vorrei che faceste il medesimo sforzo anche voi. È stata lei a dirvi che era questo il suo obiettivo? No, non serviva che me lo dicesse perché non ho dubbi su quale sia la sua decisione. Quella di dimenticarmi? Sì, Markham, perché non dovrebbe? Ah, bene, mi limitai a rispondere. Ma dentro di me continuai dicendo: invece sbagliate, Lawrence, non vuole affatto dimenticarmi. Sarebbe un errore dimenticare qualcuno che le è tanto profondamente e sinceramente affezionato, qualcuno in grado di apprezzarla e condividere i suoi pensieri. Come sarebbe sbagliato che io dimenticassi questa parte della creazione di Dio tanto meravigliosa dopo averla conosciuta e amata così intensamente. Poi cambiai argomento e infine lo salutai. Certamente con meno cordialità del solito. Non avevo motivo di essere arrabbiato con lui, eppure lo ero, e come. Lo incontrai circa una settimana dopo, mentre rientrava da una visita ai Wilson. Ero deciso a sdebitarmi, per così dire, anche a scapito dei suoi sentimenti, e forse rischiando di meritare quell'antipatia in cui spesso incorrono le persone che offrono consigli non richiesti o danno notizie sgradite. Credimi, non per un sentimento di vendetta, né per l'antipatia che nutrivo nei confronti della signorina Wilson, ma solo perché mi era insopportabile il pensiero che quella donna diventasse la cognata della signora Huntington. Quindi, per il suo bene e quello di sua sorella, non volevo che restasse intrappolato nel miraggio di potersi unire a una donna troppo indegna di lui, non idonea a condividere la serenità della sua casa e a diventare la sua compagna di vita. Anche lui nutriva dei sospetti sgradevoli su di lei, credo, ma era talmente inesperto e lei talmente scaltra e una così abile seduttrice da farglieli presto dimenticare. La vera ragione per cui fino a quel momento aveva evitato di farle una dichiarazione ufficiale erano i parenti di lei, e in particolare sua madre, che lui proprio non sopportava. Forse, abitando più lontano, avrebbe potuto considerarlo un ostacolo superabile, ma a sole 2 o 3 miglia da Woodford era qualcosa di cui tenere conto seriamente. «Siete stato dai Wilson, Lawrence?» gli chiesi mettendomi accanto al suo pony. «Sì», mi disse lui, «era opportuno che approfittassi della prima occasione per ricambiare le loro attenzioni affettuose, dato che si sono mostrati tanto premurosi durante la mia malattia». «Sarà stata opera della signorina Wilson», commentai. Lui arrossì e disse: «E in questo caso credete che sarebbe stato un motivo per non mostrarsi riconoscenti?» «Forse un motivo perché non vi mostriate riconoscente nel senso in cui lei spera». «Preferirei cambiare argomento, se non vi dispiace», mi rispose infastidito. «E invece, con il vostro permesso, io continuerei e ne approfitterei per dirvi qualcosa, Lawrence. Potete anche non credermi se volete, ma ricordate che non ho l'abitudine di raccontare bugie. Ne avrei motivo in questo caso di dire una cosa per un'altra. Ebbene, signor Markham? La signorina Wilson odia vostra sorella. Certo, non essendo a conoscenza della verità, è abbastanza naturale che la consideri una nemica. Eppure nessuna donna davvero buona o amabile si mostrerebbe capace di tali malizia, freddezza e ostilità nei confronti di una presunta rivale. Markham! Proprio così! E vi dirò, sono convinto che siano state proprio Eliza Millward e lei a inventarsi per prime quelle calunnie, o quantomeno a farsene per prime promotrici e seminatrici. La signorina Wilson preferiva non vedere il vostro nome legato a questo scandalo, chiaramente, ma desiderava e ancora desidera gettar fango su vostra sorella senza esporsi troppo in prima persona. Io non ci credo! Mi interruppe bruciando di rabbia. Non sono in grado di dimostrarlo e dovrò accontentarmi di dirvi che è così per quel che ne so io, ma sono certo che non sposereste tanto volentieri la signorina Wilson sapendo che ho ragione, quindi vi consiglio di andarci piano, almeno finché non sarete certo che mi sbaglio. Ma io non ho mai detto di voler sposare la signorina Wilson, mi disse in un moto di orgoglio. Forse voi non lo intendete, ma lei sì. È stata lei a dirvelo? No, ma... Non potete permettervi allora di fare certe affermazioni, disse, e diede di gambe al pony perché accelerasse il passo. Afferrai la criniera del cavallo, determinato a non farlo andare via così. Un momento, Lawrence, lasciatemi spiegare, non siate così chiuso. Io so che opinione avete di Jane Wilson e posso dirvi che è sbagliata. Voi la ritenete affascinante, assennata, raffinata, e non vedete quanto è invece egoista, fredda, avida, falsa ed effimera. Ora basta, Markham. Lasciatemi finire. Dovete sapere che se la sposate, la vostra casa sarà senza luce né tenerezza e finireste con il cuore spezzato per avere accanto una donna incapace di condividere i vostri gusti, le vostre idee, i vostri sentimenti, priva di sensibilità, di bontà e di nobiltà d'animo. Avete finito ora? Mi chiese. Sì, so che mi odiate per la mia insolenza, ma non mi importa. Se servirà ad evitarvi un simile abbaglio. Ebbene, mi rispose con un sorriso affettato, mi fa piacere vedere che avete dimenticato le vostre preoccupazioni al punto da riuscire a occuparvi degli affari degli altri, preoccupandovi di quali immaginari pericoli si annidino nel loro futuro. Ci salutammo con freddezza, ma non smettemmo di essere amici. Certo avrei potuto offrirgli il mio consiglio con più discrezione e lui mostrarsi più riconoscente, ma non fu del tutto inutile. Non tornò a trovarla. E sebbene non me ne abbia mai parlato apertamente, sono certo che dopo il mio ammonimento abbia cercato di raccogliere informazioni su di lei anche da altre fonti per paragonarle con l'idea che se n'era fatto lui e la descrizione che gliene avevo dato io, e avesse infine deciso che era meglio che restasse la signorina Wilson di Rycote Farm e non la signora Lawrence di Woodford Hall. Anzi, credo che abbia imparato a guardarla anche lui con occhi diversi, congratulandosi con se stesso per lo scampato pericolo. A me, comunque, non disse mai nulla, né mi ringraziò per il piccolo contributo che avevo dato alla sua salvezza, ma lo conoscevo troppo bene per sorprendermene. Quanto a Jane Wilson, ero ovviamente delusa e triste per l'improvvisa freddezza del suo ex corteggiatore. Avevo commesso un errore a guastare le sue speranze? Non credo, né ho mai nutrito dubbio in proposito da allora a oggi.